Pulcinella e Colombina, stanchi di essere appesi per la testa a un filo, decidono di abbandonare il gran teatro di marionette diretto da Fernando Malvasia. Fuggiti dal paese di Te lo domando, le tre marionette vanno incontro alla vita, senza fili, si intende. Radio Città Fujiko presenta Marionette in libertà. Massimo Vitali legge Gianni Rodari. Capitolo ottavo. Chi fa ritorni in compagnia nel taschino del Sor Malvasia? Come vi ho detto, le marionette si misero in salvo per tre stradette. Una di qua, l'altra di là, la terza diritta se ne va. La terza era Colombina e si nascose in una cantina. Non sapeva che fare e che dire e di paura voleva morire. Rimase nascosta fino a sera in quella cantina nera nera, dove aveva per compagno un malinconico piccolo ragno. Filava un filo sottile sottile e sospirava con aria gentile. La padrona, cara figliuola, è più dannosa della gragnuola. So i fastidi, le noie, i guai che per sua colpa io già sopportai. Appena è finita la rete mia, che lei con la scopa la spazza via. Io tesso in un angolo del soffitto e se non scappo, zac, eccomi fritto. Tesso in cucina, tesso in tinello, ma il risultato è sempre quello. Per questo mi vedi così magrino. Da un mese non piglio neanche moscerino. Giusto cielo, la sento arrivare. Se ti trova è un brutto affare. Ma la signora, sempre allerta, la poverina ha già scoperta e ridacchiando dice così: guarda, guarda chi trovo qui. Per l'appunto ero disperata che la domestica, guarda un po', mi è scappata. Presto al lavoro, ragazzetta, tu sarai la mia servetta. Colombina singhiozzò, non ebbe il coraggio di dire no. Si mise il grembiule e dopo un momento era già lì, guarda un po', che lucidava il pavimento. Lucidò sala e salotto, la scala di sopra e quella di sotto, il corridoio, il gabinetto e 10 camere da letto. La signora, con gli occhi in fuori, sorvegliava tutti i lavori e per vedere più di fino si mise pure l'occhialino. Colombina lucidava e lei predicava e predicava e predicava: lucida quello, lucida questo, fai più piano, fai più presto, un po' più in alto, un po' più in basso, non stare zitta, non fare chiasso, adesso di qua, adesso di là, la sala da pranzo, ma fa pietà! Colombina, povera figlia, frega, spazza, lucida, striglia, consumò tutto lo straccio, si fece male a una mano e pure al braccio, alle piaghe sui ginocchi, alle lacrime agli occhi. A vederla come patisce, la signora si stizzisce. Se devi piangere ancora un pochino, vai a piangere sul lavandino, così le lacrime non vanno sprecate, ci laverai piatti e posate. Colombina, offesa a morte, scoppia a piangere anche più forte. Ma proprio in quella, per la via, ci passava Don Malvasia. Tende l'orecchio, guarda fosco. Io questa voce la riconosco. bussa alla porta, grida, minaccia e Colombina in tasca si caccia. Alla signora per ricompensa rubò una bottiglietta dalla dispensa. Colombina piange, ahimè, nel taschino del gilet, accanto alla pipa che grida: per bacco, non mi bagnare tutto il tabacco. Così, prigioniera del Sor Fernando, faceva ritorno a Te lo domando.